Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Vi sarete immediatamente accorti che è cambiata la sigla e cambierà anche qualcosa in questo programma. Ho voluto mettere una musica che in realtà non dice nulla assolutamente, che non si mangi il senso del programma con il suo pathos, come ho sempre fatto in questi anni. Sempre musiche, canzoni significative, espressive, che a me dicevano qualcosa e attraverso le mie parole trasferivano qualcosa che mi ascoltava. No, questa mattina voglio mettere una musica che sia semplicemente un intermezzo, uno stacco da ciò che c'era prima, a noi che arriviamo. E il tema da oggi di Melco, perlomeno fino all'esaurimento di questa stagione, sarà la realtà condivisa. Questa è una parola che in realtà non dice assolutamente nulla. Nessuno di noi ha nessuna voglia di condividere, se non sporadicamente, se in alcuni momenti, alcuni istanti della propria vita, qualcosa che ha il piacere di condividere. Ma visto che da parecchi anni tengo uno sguardo attento rispetto a quello che sta accadendo in un mondo che è sempre meno parallelo ma è sempre più concretamente innestato con la realtà che viviamo, che è quello della rete, la realtà condivisa richiama immediatamente al senso della condivisione, che è la chiave di tutte le filosofie, di tutte le logie, di tutti i movimenti di pensiero che si muovono in rete. La rete non è più qualcosa da considerare come un luogo popolato da alieni. La rete è una dimensione quotidiana per la maggior parte dei nostri connazionali. Questo lo dicono gli indicatori dell'Istat quando si accorgono che nel censimento online gli italiani fanno esplodere i loro server in maniera inaspettata. Se ne accorge il Censis, ne abbiamo già parlato, quando si accorge che è aumentata notevolmente l'età della persona, del nostro connazionale italiano che si muove in rete. Ma è normale, ormai chi è che non ha uno smartphone, chi è che non ha un computer a casa, chi è che non usa comunque gli strumenti informatici per comunicare. Sono delle appendici, sono delle protesi alle nostre emozioni che tutti hanno imparato a usare. Gli indicatori ci dicono altresì che la maggior parte delle unioni sentimental coniugali che falliscono lo fanno perché avviene un cortocircuito attraverso un social network, un luogo di interconnessione emotiva attraverso la rete. Le persone imparano a moltiplicare le loro capacità di relazionarsi, le persone imparano a sovrapporre i propri tempi. Non abbiamo più un tempo unico, abbiamo tanti tempi sovrapponibili e mentre facciamo una cosa ne facciamo altre centinaia di cose. Questo ha i suoi lati positivi, ha i suoi lati problematici, pone le sue domande. Quello che vorrei evitare di fare è seguire il corso facile che seguono molti organi di informazione tradizionali, che ancora guardano questo mondo come qualcosa di atipico, di singolare. La decima telefonata di un collega che mi dice: che ne pensi di Twitter? Rimetto giù il telefono, dico: non voglio più pensare nulla, voglio muovermi dentro questa realtà, voglio muoverci assieme agli ascoltatori della radio, come mi seguono da tanti anni, e voglio vedere esattamente se c'è una risposta a questa domanda. Il mondo che noi definiamo come il mondo della rete, il popolo di internet, con termini ormai desueti, fuori della realtà storica, fuori della concretezza, è realmente un grande incubatore della società futura. Quello che sta accadendo in rete, che oggi viene visto con sospetto, viene visto con timore, viene visto con grande o esagerata e fantomatica affezione, è qualcosa che sta crescendo e presto contaminerà, come se fosse un virus, la nostra società. Non dico un virus maligno, anche un virus probabilmente benefico. La società muterà, muteranno le sue strutture, muteranno il livello e i modelli della sua organizzazione, muteranno i sistemi economici e ne siamo necessariamente convinti, visto che quello che stiamo seguendo ogni giorno che chiamiamo crisi. Per fare questo avrò degli amici, avrò delle persone che mi seguiranno, avrò soprattutto una nuova area di interconnessione. Io sarò a vostra disposizione, lo sono già stato, sono anni che sono a disposizione del mio pubblico, sempre, sia prima che dopo la trasmissione. Chi mi conosce, chi mi segue, sa come è facile trovarmi immediatamente su Facebook, mandarmi un'email, io rispondo, da un po' di tempo anche trovarmi su Twitter. Ma in particolare abbiamo allestito un'area web che semplicemente voi andate su www.radio24.it/melog, la trovate, è ben composta, ci sono i flussi di coloro che mi seguono attraverso Facebook, ci sono i messaggi su Twitter, e da adesso posso rispondere anch'io, davanti a me la maniera per rispondervi. Ci sono anche dei video che noi facciamo, che mettiamo per raccontarvi, farvi visualizzare, visto che la radio non può più fermarsi, limitarsi alla semplice dimensione dell'ascolto. La radio va oltre, come ho sempre teorizzato, la sua specifico. La radio è qualcosa che appartiene alla comunicazione, allo stato puro, che può incanalarsi attraverso tante altre forme di fruizione. Quindi scrivete, partecipate, manderete i vostri video, vi dirò via via quali sono le circostanze. Entriamo subito nello specifico per aggredire il problema della condivisione, della realtà condivisa. Partiamo dalla più semplice delle considerazioni: la rete è un'alternativa ai sistemi di intrattenimento, di socializzazione tradizionali che abbiamo sempre considerato culminare nella televisione. La rete sta creandosi e costruendosi un nuovo modello di televisione, o semplicemente in rete c'è un grande caravanserraglio, un grande gioco del cazzeggio, una grande esplosione delle velleità che appaga le persone che ci stanno dentro. Io mi sono fatto qualche domanda soprattutto nella serata di ieri, quando guardavo quello che per la televisione tradizionale era comunque un evento molto annunciato. Il presidente del Consiglio, Mario Monti, va in televisione a parlare con Fabio Fazio. Nel nostro sistema di riferimento tipicamente nazionale, questo è un evento. Qualcun altro direbbe: perché il Presidente del Consiglio va la domenica sera a parlare con un comico? Ma questo fa parte comunque del nostro sistema tradizionale televisivo. Va lì e fa il suo monologo davanti a Fazio, che sorride, fa qualche battutina sul Cotechino, che giustamente è l'ambito di intervento nel quale un comico può intervenire su questioni così delicate che richiedono una così profonda conoscenza della materia, visto che oggi se si parla di economia, si parla di finanza, non si parla più di stupidaggini. Quindi parla della facezza del Cotechino, che l'ex ministro Calderoli aveva accusato il Presidente del Consiglio di consumare il Cotechino a Palazzo Chigi a costo del contribuente. Lui ha mandato una lista esatta dei negozi dove ha acquistato il tristerrimo Cotechino di Capodanno, lui, la moglie, i bambini. Io ho seguito questo programma non tanto in televisione, ma attraverso il popolo di Twitter, che ha questo passatempo fantastico di seguire i programmi e commentarsi. Beh, di tutta la discussione fra Fazio e Monti è rimasta la coda, cioè Luciana Littizzetto. Dopo la pubblicità del dentifricio per le gengive fiammate, sì, con tanto di sputo schifulento, sì, nella mano, già detto, adesso ma... è arrivata la pubblicità della nuova supposta effervescente. Hai visto? Questa cosa si chiama evacu, che sottintende felicemente il verbo evacuare. Sì. No? Potrebbe anche chiamarsi cacabubble. Luciana, guarda! No, però c'è un limite... supposta, praticamente tu la metti 800 24 00 24, rimane sempre il numero verde, la maniera per interagire e comunicare con noi, per partecipare alla trasmissione. Rimangono naturalmente tutte le forme che via via vi dirò attraverso gli strumenti di rete. Non voglio enfatizzarli oggi, sennò diventa la solita trasmissione cyberfighetta che si vanta del fatto che sta in rete. Stare in rete, ve lo dice chi ci sta da una quindicina d'anni, nella sua mente qualcosa che appartiene alla più spiccata modernità, significa vivere una delle potenzialità del nostro tempo. Ho detto che avrei avuto delle persone con cui commentare la mattina e cercare di dare delle risposte a una domanda. Uno qui in studio è Piero Vereni. Piero Vereni, buongiorno. Buongiorno. È antropologo, ricercatore all'Università di Roma Tor Vergata, autore di Identità Catodiche, edizione Meltemi. Piero Vereni è uno dei pionieri dell'attività di seguire attraverso Twitter, cioè attraverso un sistema di microblogging, cioè mandandosi dei piccoli messaggi 140 caratteri a tempo reale, programmi televisivi. Hai seguito anche te ieri la trasmissione di Fabio Fazio? Sì, l'ho sentita, sì. Appunto c'è questa tendenza ormai consolidata, penso, in rete, no? di fare questi gruppi di ascolto che poi sono, ecco, per tornare alla tua questione se la rete sia un'alternativa, i gruppi di ascolto si fanno da tanti anni, insomma. Si guardava, mi ricordo le prime edizioni del Grande Fratello, insomma, prima che ci fossero gli strumenti social network, si guardavano in compagnia, in un gruppo di amici, anche per essere critici, o si facevano i gruppi di ascolto alla serata finale di Sanremo addirittura. Quindi il fenomeno in sé non è particolarmente originale, c'è questa Però c'è uno strumento tecnico condivisibile che possono usare tutti per farlo. Ecco, esatto, e quindi lo puoi fare magari con l'amico che sta dall'altra parte della città o dall'altra parte del pianeta, insomma, quindi il vantaggio dovrebbe essere quello, insomma. Il limite, mi sembra evidente, è questo dei 140 caratteri, insomma, che ti costano. Che però diventa uno strumento di sintesi e di ammaestramento all'uso quasi poetico della parola. Esatto, ecco, forse quello, c'è una nuova, una versione, ma non so quanto sia consapevole questo processo, insomma, no? Di poeticizzazione della comunicazione, ma sicuramente la sintesi in questo caso può avere degli sbocchi inaspettati. Io ebbi modo di partecipare qualche tempo fa a un dibattito che partiva da Tullio De Mauro, insigne linguista, che diceva gli italiani stanno perdendo il senso della lingua. Io sono convinto che invece italiani rozzi e analfabeti che scoprono Twitter imparano comunque qualche maniera a esprimersi attraverso la parola scritta, quindi questi strumenti in realtà rialfabetizzano l'Italia, come faceva la televisione negli anni 60 di Bernabei. Quello era un'oralità e Twitter, molti canali invece rialfabetizzano in forma scritta. Però ti faccio una domanda: la televisione tradizionale ormai lo dimostra, quello che stiamo dicendo è qualcosa in rapida e velocissima putrefazione, tanto che il divertimento è di osservare, come se fosse tante tricotese, la fase finale, l'esecuzione finale della vecchia televisione, e divertirsi commentando. Ma oggi non farebbe, secondo te, il programma del secolo colui che rinunciasse alla costosissima macchina di produzione televisiva e semplicemente facesse vedere una videata di Twitter sul monitor e dice divertitevi, ragioniamo insieme su un programma di qualcun altro? Sì, da una parte sì, se ci fossero probabilmente degli investitori più coraggiosi, insomma. Io temo che il problema sia proprio l'inerzia del sistema ancora attuale vigente, insomma, dei finanziamenti. La pubblicità è finanziata da investitori che hanno bisogno delle audience stabilite, che hanno bisogno di audience che si possono preacquistare. Oggi probabilmente su questi fenomeni non si può ancora fare qualcosa. Io ho fatto un piccolo esperimento assieme a Fabrizio Intonti, sono andato a vedere quelli che sono i 10 video più visti su YouTube. È il sistema che dovrebbe rappresentare l'alternativa alla televisione tradizionale, ma anche il sistema di espressione, di rappresentazione delle età personali e di trasformare in epica il proprio quotidiano. E vi faccio sentire quelli che sono i video più visti su YouTube e avrete delle sorprese. Voi immaginate, se in rete si sta creando qualcosa di nuovo, un modello finalmente intelligente, culturalmente applicabile alla contemporaneità, su YouTube avremo la quintessenza della rappresentazione dell'umanità invece che le cialtronate a televisione generalista. Invece non è così. Al decimo posto con 300.000 visualizzazioni il video Nonna Pantellas versus Bimbo Minchia. Basta cuoricini nella chat di Facebook. No alle serenate. Erano fuori moda ai miei tempi. Figuriamoci ora. È una signora anziana che semplicemente dalla sua posizione vetero conservatrice se la prende con i giovani, quindi la cosa più vista è in realtà lo strumento di massima negazione della propria esistenza. Al settimo posto con 390.000 visualizzazioni il video Italiano Medio. Vedete quello? Ero io. Avevo la fissa per l'economia. Ciao, mi fai uno spread? Cosa? Ah, scusa, uno spritz. Ah, sì. Bello, cos'è? In Dow Jones. Basta, Giulio. Comunque, qualcosa qua sulla... rientriamo nel fenomeno che diciamo prima con Vereni. Twitter si alimenta come un avvoltoio. Scusate, Facebook, YouTube si alimenta come un avvoltoio si alimenta di un cadavere, dei pezzi a televisione generalista, e prende i pezzi che in realtà hanno una maggiore presa sulla realtà. Questo è Maccio Capotonda sulla 7, che fa un personaggio politicamente correttissimo, va al bar invece che lo spritz chiede lo spread, tanto è legato comunque alla problematica, pubblicizza la necessità appunto di condividere le problematiche, di socializzare, però improvvisamente accade qualcosa nella sua vita. C'è una cosa che ti può aiutare, sai quella storia che usiamo solo il 20% del cervello? Vabbè, la provo, dai, solo per curiosità. Con questo lo usi solo il 2%. Prima vedevo, ora ero cieco. È buona? Scopare! Ieri sera ho conosciuto sta maiale in discoteca, l'ho portata in bagno in un secondo e gliel'ho buttata! Giulio, che guardi? Ma non hai sentito che è caduto il governo? E a me che cazzo me ne frega a me? Ci sta proprio lui! La cultura diventò inutile. Improvvisamente diventa l'italiano medio, diventa l'espressione più felice di tutta quella televisione generalista, di tutti quei reality show, di tutta quella cialtronaggine portata a livello di sublime che rappresenta la televisione. Quindi c'è questa sorta di ritorno nel mondo della rete, di osservazione, di analisi, ma anche di guardarsi allo specchio. Ma la cosa che più mi colpisce è questo sesto posto, e si parla di decine di migliaia di video visti, che rappresenta una cosa schifosissima. Rappresenta una signora con un bisturi, esplode il brufolo più grande del mondo, va sulla schiena di un signore anziano e dura veramente, è lancinante, inguardabile, indescrivibile, e apre questa sorta di bubbone sulla schiena e lentamente fa fuoriuscire tutto quello che conteneva. Al sesto posto, con 450.000 visualizzazioni, il video sul brufolo più grande del mondo. Il brufolo più grande del mondo, ragazzi, il video su YouTube, incredibile, mamma mia, mai visto niente del genere, ha buttato fuori mezzo chilo, un chilo di pus, una cosa mostruosa. Molti dovranno ancora fare la prima colazione, quindi vi risparmio comunque la visione di questa cosa, però questo appassiona persone, appassiona migliaia di persone, sono numeri che farebbe invidia alla televisione generalista. Cosa sta accadendo? Questo mondo in cui si sta riposizionando, ricostruendo la società, si stanno rimmaginando i rapporti fra gli esseri umani, o è semplicemente il luogo del cazzeggio totale, il luogo in cui ci si sente liberi, come quando ci si chiude al bagno durante la ricreazione a scuola, si può fare di tutto, scrivere sui muri, fare le sconcezze, parlare male dei professori. 800240024. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, sono Gianluca. Andrea Rossetti, professore di filosofia del diritto, Università di Milano Bicocca, docente di informatica giuridica. Siamo partiti dal più percepibile dei dati, analizzando la rete, ancora una volta prestando il fianco a chi la vuole come un universo parallelo, come un mondo a parte, qualcosa che non abbia a fare con la nostra realtà. Dal punto di vista della tua disciplina, Andrea, vedi che in questo mondo, in realtà, al di là di questa lettura che può sembrare superficiale, ma è molto fatta di pancia in tutti i sensi, stia accadendo qualcosa che vale la pena di osservare come un laboratorio di realtà per gli anni futuri? Ma sicuramente iniziamo a usare la rete in una maniera molto diversa da quella di 15 anni fa, appunto di 20 anni fa, quando tutto sommato queste tecnologie iniziarono a diffondersi anche tra la popolazione. Il momento è davvero interessante e soprattutto iniziamo per la prima volta, secondo me, a notare differenti usi in diversi contesti, geografici. Ad esempio, in Italia in questo periodo si sta parlando moltissimo di Twitter, ma tutto sommato è una cosa che unicamente nel nostro paese, insomma, perché al di fuori dell'Italia Twitter si è già diffuso da molto tempo e il suo uso all'interno dei media tradizionali è ormai un uso consolidato. In Italia invece Twitter sembra in questo momento il modo di comunicare più interessante per i giornalisti, sia televisivi sia radiofonici, ma anche dei giornalisti della carta stampata. In molte redazioni ormai mi si dice, insomma, che c'è un'attenzione costante alle notizie che arrivano proprio dal basso. Quella che sta venendo un po' meno, mi sembra, è l'idea che questi strumenti possano sostituire gli intermediari tradizionali della comunicazione, ossia ormai mi sembra chiaro, mi sembra che pochi sostengano l'idea che il giornalismo scomparirà, i giornalisti scompariranno sostituiti da torme di cittadini volenterosi che vanno in giro per l'Italia, vanno in giro per le proprie città a caccia di notizie. La domanda ci se la fa Andrea tante volte, quando capita chi di mestiere scrive, è pagato per scrivere e scrivere il suo mestiere, non perché sia migliore degli altri, che probabilmente quello fa e comunque gli è riconosciuta, visto che ha un mercato, se qualcuno lo paga per scrivere, che pubblica un pezzo su questi strumenti di condivisione. E arriva l'ultima persona che magari nella vita scrive soltanto, riempie i bollettini quando va a pagare alle poste qualcosa o scrive le liste della spesa, dicendo, che ti fa le pulci e ti dice: ma perché non hai toccato questo pezzo? Perché non sei stato così profondo? Perché hai sbagliato completamente? Perché ti occupi di queste cose stupide? E ti viene in mente dire: ma tu chi cazzo sei? Scusa, ma perché devi dire questo? Su questo cosa hai da dire te invece, Piero Vereni? Su questa sorta di che già accennato Rossetti, poi entriamo nello specifico, di improvviso spostamento della piramide dei valori. Sì, lo chiamo il qualcunismo, no? Questa tendenza, questa convinzione che il fatto stesso che tu hai un mezzo a disposizione che ti consente di comunicare a molti, ti autorizza ad avere un'identità. Cioè, nel vecchio modello del, diciamo, del broadcasting, no? Che è quello radiofonico, quello da televisione, in cui c'era un soggetto centrale molto forte, dotato di un'identità fortemente riconoscibile, una radio con un marchio, un giornalista famoso, che comunicava a tutti e questi tutti assorbivano un senso di comunità dal fatto di ascoltare questa persona. Oggi invece l'identità purtroppo è resa disponibile anche a chi non sempre ha qualcosa da dire, insomma, per quello che è il qualcunismo, no? È l'effetto di entrare come audience nell'evento, che anche questo lo conosciamo da tantissimo tempo nella televisione, ma nel momento in cui questo ingresso dell'audience nell'evento è veramente a gamba tesa, insomma, no? Lì diventa difficile poi poterlo controllare. E rispetto a quello che diceva Rossetti, c'è questa sorta di frenesia, di desiderio di sedere alla mensa degli dèi, sì, di partecipare al grande miracolo delle persone eccellenti, quelle che rappresentano le gerarchie angeliche più eccelse del mondo della produzione del pensiero, del giornalismo, a torto o a ragione, non entro in merito, visto che si concedono e ogni giorno twittano il loro parere, le migliaia di persone che li seguono hanno l'impressione di essere a loro volta seguiti. Questo modello però ha interessato un altro punto di vista ancora, visto che questa è una mattina di esposizione di quelli che saranno i temi che poi seguiremo in questi mesi. Antonio Spadaro, buongiorno. Buongiorno. Antonio Spadaro è direttore di Civiltà Cattolica, quindi è un gesuita con tutti i quattro quarti di nobiltà di poter esprimersi in maniera concreta e cosciente anche rispetto ai problemi dell'assoluto. Antonio Spadaro, che conosco da anni perché è un prete che si interessa di questo mondo, ci si interessa, c'entra di persona, dai tempi di Second Life Antonio Spadaro scriveva che questo è un mondo in cui accade qualcosa. Beh, Spadaro ultimamente ha scritto proprio sulla sua rivista un pezzo che ha creato un certo dibattito. Dentro la rete si muoverebbe qualcosa che assomiglia alla ricerca di assoluto. Tu vedi una dimensione metafisica veramente in questo mondo stiamo cercando di definire? Ma direi di sì, cioè la rete, come tu dicevi prima, è un ambiente di vita, la gente vive in rete e la rete quindi ha un impatto sul modo di pensare, di vivere, di creare relazioni. Allora la mia domanda è questa: nel momento in cui la rete cambia il modo di pensare, ha un impatto sul modo di pensare, non cambierà anche il modo di pensare alla fede? Cioè, ritengo che la rete e la cultura del cyberspazio pongono nuove sfide alla nostra capacità di formulare, di ascoltare anche un linguaggio simbolico che parli della possibilità e dei segni della trascendenza della nostra vita. Quindi forse è il momento di considerare la possibilità di quella che ho definito una cyberteologia, ho aperto anche un blog su questo, cyberteologia.it, intesa proprio come l'intelligenza della fede al tempo della rete. Ci fermiamo soltanto un istante, Antonio, che dobbiamo dare la linea alla borsa, poi mi interesserà seguire proprio con te il fatto di come stia mutando. Sta creando anche delle religioni la rete, esiste da poco la religione legata appunto all'idea della condivisione, all'idea del file sharing. In Svezia è nata una nuova religione dicendo condividiamo la musica, quindi condividiamo l'immaginario, quindi questo, diciamo, è il punto fondante di una nuova religione. Quanto anche dentro la rete si stanno ricreando quei meccanismi che poi nella storia dell'umanità hanno creato la sensibilità verso una dimensione che non sia semplicemente quella concreta, quella che viviamo tutti i giorni. Melog, la realtà condivisa. 800 24 0024, di tutto quello che abbiamo detto, abbiamo sollevato sul desiderio di condivisione, di condividere la nostra realtà con le persone che ogni giorno per hobby, per divertimento, per passatempo, per alimento alla propria anima, condividono attraverso i social media il loro pensiero e lo contano con pensiero altrui. La proposta più interessante è stata quella che, della persona che mi ha detto di soffiarmi il naso, che si sente un fischio al naso, cosa che ho fatto, ma andiamo avanti. Mi ero interrotto con Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, che sta analizzando, studiando e osservando, come se fosse un missionario in terre sconosciute, il mondo della rete, per vedere se anche lì, attraverso le tante singolarità, stranezze o maniere di esasperare appunto il senso della propria realtà o sovravalutare, ipervalutare le realtà altrui, possa esistere qualcosa che assomiglia alla ricerca di assoluto. Poi, prima di continuare con lui, voglio sentire un ascoltatore che ho da molto tempo al telefono. Ciulzu, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho ascoltato prima la trasmissione, ho sentito che come metodo di valutazione per capire se una cosa è interessante su YouTube, lei è andata a vedere il numero delle visualizzazioni. E come metodo forse può andare bene, però secondo me io stesso che su YouTube guardo non so, video di fisica oppure teoria della relatività. Lei cosa fa? Qual è la sua attività? Io ho un bed and breakfast e gestisco un bed and breakfast al mare, quindi diciamo che passo del tempo davanti a YouTube. E questi video dove si vede, non so, la signora che spreme il brufolo, insomma cose brutte, magari che possono sembrare stupide, io pure le visualizzo, le guardo, perché compaiono sulla pagina principale di YouTube, però ecco, sono 10 secondi di svago che poi sono... Sì, ma questo io non è che negavo l'aspetto ludico, guai se fosse un luogo di estremo rigore, fosse una scuola di dottrina. Notavo che comunque ancora nel segno della dissipazione, che sta bene, fa anche bene, è divertente, è ridere sulle piccole sconcezze, che è un'attività molto fanciullesca, si vede che ancora deve maturarsi un'estetica. Sentiamo Fulvio invece. Pronto? Sì, Fulvio. Ciao, sono Fulvio Zentrini. Ciao, Gianluca. Ah, ciao Fulvio Zentrini. Allora, io da tanti anni mi occupo di comunicazione e c'è una cosa che è estremamente interessante, quello che è stato detto dal sacerdote, per esempio, prima, e cioè che tutti quanti sosteniamo, e cioè la rete, tutti quanti, chi la studia, la rete sa che sulla rete non si guarda la rete, non si ascolta la rete, sulla rete si vive. Questo concetto è fondamentale ed è, a ragione tu, dicendo che le aziende ancora l'hanno capito fino a un certo punto. Faccio un esempio molto pratico. Le aziende hanno investito enormemente su X Factor quando X Factor era in Rai. Le aziende hanno continuato ad investire adesso che X Factor è su Sky, ma l'impostazione di X Factor su Sky è completamente diversa rispetto all'impostazione. L'impatto è assolutamente imparagonabile. Prima era una trasmissione per signore attempate, adesso è un gioco che coinvolge le persone. Bravissimo, il coinvolgimento è quello che va valutato. Infatti ti faccio anche i complimenti per come stai variando la trasmissione, perché il coinvolgimento è quello che rende vivo, quello che rende interessante, e interesse uguale molto spesso anche quantificazione, se vogliamo, per l'investitore pubblicitario. Allora, tu Fulvio l'hai lavorato in aziende, sei sempre occupato di promozioni, pubblicità, di sistemi virali, di comunicazione, però hai detto una parola molto interessante: coinvolgimento. Antonio Spadaro, il coinvolgimento è la base essenziale di un atto di fede o di un rivolgersi verso realtà che non sono quelle che tocchiamo e conosciamo? Laddove non abbiamo esperienze, cerchiamo un'esperienza che può trasfigurarci, portarci in altre dimensioni, dobbiamo necessariamente essere coinvolti. Non è che questo coinvolgimento, che sembra scemare ormai nelle pratiche quotidiane, si stia ritrovando, o almeno tu forse il primo nella tua follia averlo osservato in questa nuova maniera di porsi tra gli esseri umani? Ma certamente, assolutamente sì. Cioè, di fatto si assiste al fenomeno per cui la classica ricerca di Dio al tempo dei motori di ricerca non solo sopravvive, ma vive molto bene. Di fatto, digitando in un motore di ricerca la parola God oppure religion, spirituality, teniamo liste di centinaia di milioni di pagine. Ci sono dei siti come BeliefNet, per esempio, che serve sostanzialmente a questo, a intercettare la domanda religiosa. Non è che lo chiameranno in un'altra maniera, che non può più essere usato nemmeno le parole convenzionali. A ricerca, no, di Dio è qualcosa che mi sento dire da quando vado al catechismo, esatto, da piccolo. La rete in realtà è una cosa molto vecchia, cioè noi la interpretiamo come un fenomeno nuovo, ma in realtà di nuovo c'è la tecnologia, ovviamente. L'anticipò un tuo collega gesuita tanto tempo fa? Beh, direi di sì. Direi di sì, ma in realtà cioè la rete dà forma nuova, evidentemente, ma è sempre stato così nella storia, a desideri e bisogni profondi dell'uomo. Quindi questo fatto di interpretare la rete come l'ultima novità... Beh, bisogno di esistere mi sembra un bisogno fondamentale. Se io esisto perché ho 10.000 persone che seguono i miei tweet, esatto, mi sento appagato. E c'è direi qualcosa di più, perché il concetto stesso di identità sta diventando qualcosa che si misura in qualche modo, si verifica in rete. E questo è qualcosa con cui dovremmo fare i conti. Scusa, tu cosa mi dici del fatto che l'identità non è legata alla propria appartenenza sociale, al proprio aspetto fisico, alla proprietà? Ma c'è un'appartenenza sociale. I preti hanno sempre insegnato quello che conta non è i valori terreni, ma è qualcosa che noi abbiamo dentro, qualcosa che esprimiamo. Ma chi va in rete e si esprime attraverso 140 caratteri o semplicemente attraverso un suo avatar o attraverso una sua rappresentazione scritta e figurata, non si rappresenta come vorrebbe essere, togliendosi di dosso tutti gli orpelli della concretezza, la materialità del secolo che ci opprime? E in qualche modo sì, ma in realtà esprime se stesso, cioè direi che non vedrei un alleggerimento, vedrei un'integrazione. Cioè il punto è che la rete si sta sempre di più integrando con quella che è la vita reale, ordinaria, visibile, diciamo. E il punto è questo, che fino adesso la rete non è questo, la rete rischia di diventare un altro luogo, appunto una second life sovrapposta a quella ordinaria. In realtà la tendenza della rete non è assolutamente questa, ma è all'integrazione tra la vita, diciamo, reale e la vita e l'ambiente digitale, per cui la rete non sta più nel computer ma sta già nelle tasche, parliamo di internet degli oggetti. La tendenza della rete è a una integrazione profonda, tutto quello che sarà sostituzione o alleggerimento secondo me sparirà. Ecco, per dare anche a Cesare quello che è di Cesare, Andrea Rossetti, quello che diceva il padre Antonio Spadaro rispetto alla ricerca dell'assoluto, lo possiamo anche trasferire sul campo delle transizioni reali, il senso del possesso, della proprietà, del diritto. Oggi il grande dilemma di tutti i giuristi e anche di tutti gli avvocati è come trasferire gli antichi codici, l'antica concezione della proprietà, dell'oggetto, del diritto privato, in un luogo in cui queste cose sono tutte messe in discussione. Sì, la rete sta mettendo veramente alla prova negli ultimi 10 anni il diritto, fondamentalmente da due punti di vista. Dal punto di vista della privacy, infatti sono geminate negli ultimi 15 anni una serie di leggi sulla privacy che nel contesto europeo prima semplicemente non esistevano, e poi tutto il problema della protezione del copyright, della proprietà intellettuale. La cosa interessante, appunto, che semplicemente da poco tempo i giuristi e soprattutto i politici sembrano rendersi conto del problema, ossia del fatto che il problema non sia semplicemente risolubile attraverso l'apposizione di leggi che vietino comportamenti che sono normalissimi e semplicissimi da tenere in rete e soprattutto non sono percepiti dagli utenti come in qualche modo illegali. Raramente il ragazzino che scarica un file MP3 con una canzone, la canzone del suo cantante preferito, percepisce questo atto come un atto illegale, come l'andare a rubare qualche cosa. Effettivamente l'idea che sta iniziando, ma molto, ahimè, lentamente a imporsi, è che abbiamo a che fare con un tipo di economia basato sulla proprietà intellettuale completamente diverso, anche se effettivamente le lobby discografiche, cinematografiche stanno in qualche modo cercando di bloccare questo sviluppo di questa idea di condivisione completa delle informazioni. Però vedi che cominciamo a delineare il fatto che sia un incubatore di società. Il padre gesuita dice che secondo lui quella ricerca di assoluto che ammetto di mio, che nella vita concreta si sta perdendo, in effetti l'ufficialità perlomeno della nostra regione si sta sempre più orientando sugli orpelli, abbiamo visto l'ultimo Te Deum con il Papa con l'ombrellino d'oro che non si vedeva dai tempi di Alice Selassie, cioè coperto d'oro, sembra che nel riconfermare gli antichi orpelli della religione legata allo sfarzo si cerchi di mettere dei puntelli laddove non c'è più quel senso di partecipazione, di desiderio, di curiosità. Ma anche nel campo dell'etica, tu mi stai dicendo che il ragazzo che scarica la musica e non lo sente come un reato vuol dire sta modificando quelli che sono dei principi etici, quindi la società comunque sta avendo delle modificazioni. Natalia, sentiamo Natalia, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccomi. Buongiorno. Sì. Sì, io siccome c'era l'intervento del signore, sono Natalia, l'intervento del signore prima Gesù Italy, poi mi rimandava a un ricordo. Ma che è un illustre teologo, è il direttore di Città Cattolica. Esatto, però io avevo letto un po' di tempo fa, mi ero data un po' a Platone, a Socrate, eccetera, eccetera. Ognuno si dati a chi gli provoca piacere, fa benissimo. Esatto, mi ha dato molte delucidazioni sulla... allora io avevo letto su questo psi cosmico, che mi sembra che fosse Platone che l'aveva enunciato, che praticamente è un contenitore che ha dentro di sé tutta la conoscenza, che appunto è quella che va da su a giù, ed è un trasmettitore continuo. Cioè abbiamo capito che questo su e giù è la situazione che più l'ha ricollegata con quelli che sono i principi fondamentali della filosofia greca, però è chiaro, con una logica a posteriori possiamo collocare l'idea della rete, la scoperta della rete, l'idea di una realtà riflessa e di un mondo delle idee, un mondo delle cose concrete, anche, come giustamente dice lei, a principi molto più antichi. Ma oggi stiamo vivendo questa realtà e bisogna viverla. Già è sin troppo inquinata da false interpretazioni, da senso di meraviglia, da ipocrite o spaventate letture. Melog, la realtà condivisa. 800240024, non vi spaventate, non faremo mai trasmissioni così improntate sulla pura teorizzazione, ma dovevo in qualche maniera creare una linea di discrimine, uno spartiacque fra il melog precedente e il melog della realtà condivisa. Faremo comunque tante trasmissioni all'impronta del divertimento, della partecipazione, dello scazzo più indifferenziato, per oggi era necessario comunque sgombrare il campo degli equivoci. Io di questo voglio parlare di quello che sta accadendo e che viene malamente interpretato, malamente letto. Vorrei cercare di leggerlo assieme a voi, perché so che ci siete, so che ne siete contaminati, anche se non consapevolmente ne fate parte di questo mondo. Questo mondo sta modificando le vostre abitudini. Il fatto che abbiate più amici, infinitamente più amici di quanti ne aveva vostro padre o vostro nonno, già è un senso. Il fatto che questi amici vi possano raccogliere e colpire in ogni momento la vostra vita, il fatto che voi, se vedete qualcosa che vi piace, vi colpisce o attraversate un'esperienza per voi importante, sentiate il bisogno di trasferirla immediatamente in un supporto etereo come quello di una foto digitale e condividerla con altri, perché vi piace vedere cosa gli altri dicono di quel momento vostro. Sono istinti normali, naturali, non c'è nulla da stupirsi di questo, ma lo stiamo facendo. Non lo facevamo 10 anni fa. 10 anni fa non ci saremmo mai immaginati che una nostra foto istantanea potesse immediatamente essere messa all'attenzione di 10.000 persone, di 15.000 persone, e loro potessero contaminarla con il loro giudizio. Marta Cagnola, ciao, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Perché chiamo Marta Cagnola? Non solo perché è la collega con cui più spesso mi interfaccio, perché abbiamo simili attitudini e simili curiosità, perché Marta Cagnola inizierà anche lei un programma molto simile per il livello di attenzione a quello che stiamo facendo noi, che è 140 caratteri, che andrà in onda la domenica prossima dall'8:30 alle 9, in cui presenterà le sue interviste, i suoi personaggi, ma avrà anche lei la maniera di portare sul piano della sua professione riconosciuta quello che è il suo hobby. Sia io che Marta abbiamo qualcosa che è a metà tra l'hobby e la professione. Noi siamo continuamente in contatto con tante persone che sono anche la nostra fonte di informazione, sulla nostra presa diretta sulla realtà, ma svolgiamo un'attività che in realtà ci diverte molto e ci piace molto. E soprattutto Marta, la seguo da qualche giorno, è fra le più scatenate e attive persone che seguono i programmi televisivi. Io ti ho visto appassionatissima nell'ultima serata di X Factor. Mi racconti come funziona questo meccanismo di partecipazione parallela alla televisione tradizionale? Beh, insomma, si guarda tutti insieme la televisione come quando si diceva appunto tutti insieme Sanremo, ma invece di avere davanti la teglia di lasagne per guardare Sanremo abbiamo davanti l'iPad, l'iPhone o il portatile, si utilizza l'hashtag, cioè quella parolina chiave che viene preceduta da un cancelletto, quindi si riconoscono immediatamente tutte le persone che stanno guardando lo stesso programma televisivo. Nel caso di X Factor il nostro hashtag è naturalmente Melgo, lo dico per chi sta su Twitter, da oggi sarà questo, quindi attraverso il diesis o questo cancelletto, la parola Melgo, ritrovate tutti quelli che scriveranno, diranno e commenteranno all'interno di noi. Scusa Marta. Quindi questo è proprio il modo in cui si può interagire con persone che si conoscono e quindi si followano, ci si segue a vicenda, ma anche con persone che non si conoscono. Nel mio caso avevo l'osservatorio privilegiato di essere dello studio di X Factor nel Teatro della Luna, quindi io potevo raccontare, potevo commentare quello che si vedeva in onda e raccontare il fuori onda. Quindi tu avevi già una posizione di privilegio rispetto agli altri, perché tu dicevi il backstage di quello che stava accadendo, raccontavi quella che è caduta, quell'altra è stata rialzata, il senso del dietro le quinte. Quindi tu davi un servizio fondamentale a queste persone. Chi guarda la televisione, a meno che non abbia un suo agente alla Havana dietro le quinte del set televisivo, non potrà mai sapere quello che succede, che è la parte molte volte più divertente. E questo è un passo avanti rispetto alla televisione tradizionale. Ma se prima parlavate del problema del diritto d'autore, c'è un'evoluzione anche nel modo di raccontare gli spettacoli, non solo di usufruirne. Gli uffici stampa sono impazziti. Che ci sono artisti che comunicano direttamente, giornalisti e non, che raccontano dietro le quinte, che raccontano le cose prima che possano essere pubblicate dai giornali. Addirittura c'è qualche ufficio stampa che si pone ancora il problema dell'embargo. No, ma stanno chiudendo bottega molti uffici stampa di fronte a questo, perché quando l'artista ha capito che è inutile che spenda soldi inutili in qualcuno che non fa altro fare telefonate ai giornalisti per dire dai mi metti questo, io parlo solamente di realtà intermedie, non parlo di Fiorello che non ha bisogno a sto punto. Cioè lo basta che scrive ho il mal di denti su Twitter e diventa un pezzo di apertura della pagina spettacoli dei grandi quotidiani d'Italia, ma questo dal fatto che sia un grande personaggio. Quindi cambia anche il meccanismo di racconto di tutto questo sistema di mantenimento dello spettacolo, che finora è sempre basato sui giornali, sui media tradizionali, e oggi sta riacquisendo spontaneismo. Piero Vereni, su questa cosa qua, visto che tu anche frequenti questo mondo, tratti di televisione in media tradizionali, ma sperimenti di persona anche questa novità. Sì, però appunto secondo me va fatta chiara questa distinzione tra chi twitta o comunque si muove sui social network, sui social media, da quella che Marta Cagnola giustamente ha detto una posizione di privilegio, o perché è appunto un personaggio al di fuori di quel sistema, o comunque perché ha un accesso a informazioni altrimenti non. Ecco, queste persone fanno una funzione collaterale. Poi c'è l'orda degli sfigati, diciamo, esatto. Chiaramente. Sì. Appunto, va detta questa distinzione. Va detta sottolineando un aspetto che io penso che non è stato detto e che va invece recuperato. Mi riferisco a quello che diceva Fulvio Zendrini prima: la rete si vive e non si guarda. Attenzione, bellissima frase, che però implica che il guardare non sia vivere. Cioè quindi tutto quello che era guardare non sarebbe una vera vita. Cioè dobbiamo forse recuperare il fatto che ci può essere un coinvolgimento profondo anche solo nel guardare, attenti bene. Cioè... Sì, ma per questo il prete è interessato alla rete. Il guardare semplicemente e non trasformare in una concreta, reale e carnale partecipazione anche di fronte al fenomeno religioso non serve a nulla. Ma anche questo è come assistere alla messa e pensare ai cavoli propri. Ma è una nuova forma di religione di cui stiamo parlando. Certo. Cioè, sono convinto. Cioè, la religione, il religio, è il tenere assieme delle persone attorno a un'identità forte, ma non è detto che quelle persone di per sé siano dotate di un'identità forte. Loro condividono la comunità, cioè la voce che grida è una voce nel deserto, deve farsi ascoltare. Se tutti stiamo nel bailame e ognuno pretende di dire la sua, è probabile che la religione come la conosciamo diventi qualcos'altro. Andrea Rossetti, professore di filosofia del diritto all'Università di Milano e Bicocca, docente di informatica giuridica, però sei anche filosofo. Questo è un tema che abbiamo spesso dibattuto, il fatto della leadership, dell'esistenza, della democrazia, grande parola usurata dall'abuso che ne è stato fatto in rete. Sì, l'abuso adesso si è trasferito alla democrazia trasparente, io direi, no? Sembra che rendere trasparenti i dati o rendere trasparenti le informazioni renderà le nostre società di per sé più democratiche. Ovviamente questo è un falso mito, nel senso che il maggior accesso ai dati di per sé non significherà che il cittadino andrà davvero a vedere cosa questi dati significano. Ti ricordi il fenomeno Wikileaks di cui parlavamo un anno fa? Ne senti più parlare? Non ho capito, scusami. Del fenomeno Wikileaks di cui parlavamo un anno fa. Wikileaks è ormai sotto traccia, no? Ne senti più parlare? Però superato dagli eventi, anche qui ormai sembra quasi una cosa di retroguardia, perché ci sono modi in cui le informazioni escono da contesti anche molto riservati che sfuggono completamente a qualunque meccanismo di controllo sotto il quale invece alla fine poi Wikileaks è ricaduto. Qui bisogna stare attenti, appunto, c'è tutto questo movimento che si chiama di open data, che io sto studiando in questo periodo, che insomma di cui effettivamente mi faccio anche in molti casi promotore, ossia la possibilità di che viene data ai cittadini di accedere ai dati generati dalle pubbliche amministrazioni, che però non deve essere ovviamente fine a se stesso e non si deve pensare che semplicemente la liberazione di questi dati porterà l'Italia o porterà il mondo occidentale o addirittura tutto il mondo a un maggiore grado di democrazia. Forse è una democrazia diversa in cui le persone dovranno necessariamente impegnarsi di più, perché l'alternativa è avere una pseudodemocrazia in cui non abbiamo un sacco di dati disponibili, ma dati che non vengono effettivamente letti o interpretati da nessuno. Grazie Andrea, la sigla ci porta via. Abbiamo soltanto dato gli spunti, anche di questo parleremo e tutti i termini abbiamo sfiorato questa mattina in Melog, la realtà condivisa. Da domani.